Bene, allora in questo discorso del Rebbe Rashab stiamo parlando dell'esilio della Shekhinah, del concetto di Malchut, l'aspetto regno delle energie e delle forze divine. E abbiamo detto che è rappresentato questo aspetto dalla lettera Hei, in particolare la seconda Hei del nome di Hashem, il nome Havayah del tetragramma. E abbiamo detto che c'è un'allusione nella Torah in cui si usa la parola Hatzemeah, la assetata. Abbiamo detto è un riferimento Hei Tzemeah, la Hei ha sete, cioè questa Hei, questo aspetto di energia vitale divina che è quello rivolto più alla creazione, quello attraverso il quale HaKadosh Baruch Hu crea, diciamo così, in realtà non sta bene, ha sete, vorrebbe tornare verso l'alto. Abbiamo detto un aspetto di questa cosa è proprio la sua natura, come la natura di una fiamma tornare via verso la propria fonte, e sempre balla e salta per venire via dal fisico, anche l'aspetto spirituale della materia in generale è sempre attratta dalla propria fonte. Ma poi abbiamo, in questo capitolo, abbiamo aggiunto anche un'altra motivazione, e abbiamo detto che è proprio per la discesa, è proprio per la situazione nella quale si trova, dove non c'è un'illuminazione, dove è tutto nascosto il divino. Questo fa sì che, diciamo, l'anima della creazione, quello che stiamo chiamando adesso la Hei, vorrebbe uscire fuori da questo, vorrebbe tornare via verso la propria fonte. E l'abbiamo applicato a quel detto dei maestri che dicono: le acque inferiori piangono, anche noi vogliamo essere davanti al re. No? Abbiamo detto: cosa sono le acque? Le acque sono le fonti di tutto ciò che può portare piacere alla persona. E quindi, essendo la fonte di desideri mondani, fisici, materiali, questa fonte, che poi può andare a quel fine, piange. Cioè la divinità, l'energia divina che si trova all'interno, che dà vita, dà esistenza a tutto ciò, è come se piangesse. Cioè io non ci voglio stare qua. Non voglio essere una cosa che crea qualcosa che a sua volta può portare qualcuno via, allontanarlo da HaKadosh Baruch Hu, se è preso male quel tipo di comportamento o desiderio materiale. Ok? Abbiamo detto questo si chiama Shekhinah, questo aspetto del divino si chiama Shekhinah perché la Shekhinah letteralmente è quella che risiede, dimora, La quindi parte più fisica. la parte Sì. più lontana, Sì, diciamo, dall'origine, se vogliamo. E l'abbiamo applicato a quello che stiamo studiando anche nella Mishnah, il Kodesh HaKodashim, il luogo dove riposa la Shekhinah nel modo più intenso è nel Kodesh HaKodashim. E da lì si espande la sua luce, diciamo, la sua illuminazione a tutto il mondo. Così come l'anima è in un certo senso centralizzata nel cuore, e da lì parte la vitalità, l'energia a tutto il corpo. Allora, adesso in questo paragrafo dice così: Zehu inyan galuta shchina. Ora che abbiamo parlato della Shekhinah e abbiamo parlato della grande discesa della Shekhinah nei mondi inferiori, fino al punto che una persona può scegliere di andare contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu, Zehu Inyan, questo è il senso del termine che si dice spesso Galut HaShekhinah, l'esilio della Shekhinah, che è causata. Se nasa è causata agli dei tramite ma simaraim le azioni negative se la Adam dell'uomo lemata qui giù nel mondo inferiore. U che Moshe katuv, come detto nel profeta Isaia, ube pishechem shulecha imechem, a causa dei vostri peccati, pesha è un peccato, a causa dei vostri peccati è stata mandata via la vostra madre, Shulecha, è stata mandata via, espulsa la vostra madre. Che vuol dire? È un riferimento a Dehainu, cioè Sheyarda, è discesa, è venuta giù, Hashpa'at Bechinat Hei Anal, quella forza Hashpa'at Shefa, cioè flusso, energia vitale che è venuta giù, come un flusso dall'alto verso il basso, Bechinat Hei, che si esprime appunto nella lettera Hei, Anal, Anal è un acronimo, come dire, abbiamo detto prima, Anal Nisgar Leel, che è stato menzionato sopra, Venishtal Shela, e piano piano è scesa, Mi Madrega Le Madrega, da un livello al prossimo livello, Le Mata Mata, sempre più giù, Ad finché Shenitla Besha, finché si è investita letteralmente, Hashpa'ata, la sua energia, questo suo flusso di energia vitale, dove è sceso così in basso finché questa energia viene ad entrare, a creare, a dar vita a Yud Sfirot de Noga, alle 10, Yud come numero, 10 Sefirot di Noga. Che vuol dire 10 Sefirot di Noga? Allora, in generale, solo per ricapitolare brevemente, le 10 Sefirot abbiamo nella Kabbalah, nel Tikkuni Zohar in particolare, si cita Patach Eliyahu Ve'amar, si cita Eliyahu Anavi, che dice: Tu, HaKadosh Baruch Hu, hai fatto fuoriuscire da te 10, chiamiamoli, ornamenti, qualcosa che abbellisce la persona, no? Cosa sono questi ornamenti? Noi li chiamiamo, dice lì nella fonte, 10 Sefirot, attraverso i quali tu dirigi, HaKadosh Baruch Hu, tu dirigi i mondi rivelati e i mondi nascosti, tutto ciò che esiste, in altre parole. E queste Sefirot sono 10. L'elenco delle Sefirot è Chochmah, Binah, Da'at, e poi c'è Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, magari dopo mi mando lo schema per scritto. E queste 10 sono divise in due categorie generali. Le prime 3 rappresentano le forze intellettuali e le ultime le forze invece emotive ed espressive. Le 10 Sefirot quindi sono uno schema che si manifesta in ogni mondo, cioè in ogni tipo di realtà, l'avevamo anche spiegato. E quindi, se parliamo, come abbiamo già parlato prima, dei 4 mondi in generale, cui l'ultimo è questo, il mondo della Asiyah, dell'azione, in ognuno di questi mondi si esprime di nuovo lo stesso schema delle 10 Sefirot. E non solo. Anche all'interno dell'uomo esistono 10 poteri che corrispondono a questi 10 Sefirot, che noi possiamo dividere appunto nelle 3 facoltà intellettuali e le altre emotive espressive. Per esempio, Chochmah, Binah e Da'at nell'uomo cosa sono? Chochmah è saggezza. Letteralmente si traduce con saggezza, ma si intende un'altra cosa. Si intende il seme dell'idea. L'origine è un seme non sviluppato. Questo si usa l'esempio del seme. Binah si chiama anche la madre perché sviluppa l'idea. No, Binah è comprensione letteralmente, però si intende lo sviluppo dell'idea, cioè finché l'idea lo si può realmente spiegare, capire, comprendere, ha un inizio, una fine, un mezzo. È come quando, faccio l'esempio sempre, uno sta cercando di risolvere un problema, allora è lì concentrato eccetera eccetera, arriva un momento che dice: ah, ce l'ho. Leonardo, il saper fare praticamente. No, Leonardo sta lì vicino a me e dice: oh, spiegami. Dico: no, stai zitto, devo pensare. Scusa, ce l'hai o non ce l'hai? Ce l'hai ancora in testa. Ce l'ho, ma è un seme. È una lampadina. Il seme è la Chochmah o la Binah? Chochmah. La devo sviluppare. Ah, la Chochmah. Per questo dico saggezza non è corretto in questo contesto. Tradotto con saggezza, però bisogna spiegare cos'è, perché le traduzioni non sempre sono sufficienti. Chokmah è quel seme, è quella lampadina. Che è bello l'esempio che si fa nei fumetti della lampadina, perché è vero, corrisponde. La lampadina è la Chokmah. È una connessione di neuroni che tutto un botto ping, bravissimo. E Binah che cos'è? Binah è la... è lo sviluppo totale dell'idea dalla A alla Z. Quando tu hai Binah puoi mettere il progetto su carta, puoi spiegarlo ad un bambino, l'hai realmente capito. La fase veramente intellettuale conclude qui, però c'è una terza fase che è Da'at, che si traduce con conoscenza, ma non è conoscenza. Già nella Binah ce l'hai la conoscenza. Ecco, Chabad, no? Chabad è Chokmah, Binah, Da'at, sì, è l'acronimo. Ora, cos'è Da'at? Saper fare quello che... Da'at è il ponte tra l'idea e l'applicazione dell'idea. Vuol dire l'idea, se non ci fosse il Da'at, rimarrebbe un'idea astratta, teorica, non applicabile. Da'at fa sì che si applica l'idea. E quindi Da'at vuol dire anche a me cambia qualcosa se l'idea è così o è così. Da'at vuol dire far sì che l'idea sia non solo tua nella tua mente, cioè nella comprensione fredda, ma che sia tua come sentimento, la sento mia. È una cosa che mi porta a seguire un determinato comportamento. Il comportamento stesso sono le altre midot, cioè nell'uomo si chiamano midot, nello schema generale si chiamano sefirot, lo stesso concetto. Quello è, appunto, come dicevo, l'emotivo nella persona o l'espressivo, come si esprime. Allora lì ci sono varie modalità, che sia Chesed, Gevurah, adesso non entriamo. Però Da'at, nella mancanza di Da'at, non c'è nulla che segue all'idea. L'idea rimane astratta. Da'at vuol dire, e tu cosa c'entri? La famosa storia che ho già raccontato, l'esempio, la metafora di quello che non sapeva leggere e gli arrivava la corrispondenza, la faceva leggere al maestro del villaggio. E gli arriva una lettera, dice, maestro, mi legga questa lettera. Ok. Apre la lettera ed era una lettera inviata a questo povero signore che non sapeva leggere, e gli scrive in questa lettera che era morto suo padre. E questo legge e quello sviene. Ah, sì. Dice, scusa, chi è quello intelligente che legge, che capisce? È lui che deve svenire, quello lì non capisce niente perché sviene lui. Dice, ma il padre è mio! Per lui è un'idea astratta. Per lui va direttamente al suo Da'at, e quindi c'è subito un'applicazione, una reazione vera della persona. Questo è il punto che si chiama Da'at. È mio o è un'idea neutra? E quindi questi sono le prime tre, e poi ci sono le altre. Allora, nella stessa maniera che una persona si rivela, diciamo così, usiamo questo termine cabalistico, una persona si rivela, cioè si esprime attraverso quello che si chiama nella Hasidut le vesti, gli abiti dell'anima, cioè il pensiero, la parola e l'azione. Ok? Noi attraverso queste tre fasi ci possiamo esternare, possiamo esprimerci verso ciò che è al di fuori di noi, all'esterno della persona. In maniera simile a Kadosh Baruch Hu si esterna, per così dire, si rivela, tra virgolette, attraverso le 10 sefirot. Cioè questa è la modalità che funge da strumento di espressione. In ogni mondo ci sono di nuovo le 10 sefirot. Ora, cosa stiamo dicendo qui? Le 10 sefirot di Noga. Che cosa è Noga? Non è uno dei quattro mondi. Cosa è Noga? Allora, parola Noga letteralmente vuol dire illuminazione. Venoga lo saviv, c'è scritto nell'Ichezkel. Intorno c'era qualcosa che brilla. Neureola. Bravo. Perché si parla di questo? Perché nella Kabbalah, nel Hasidut, si parla di tre kelipot. Cosa intendi per kelipot? Le forze che HaKadosh Baruch Hu ha creato per essere controposte alla Kedushah. L'abbiamo visto anche all'inizio. Le tre klipot vuol dire tre livelli di energia che sono la contrapposizione al positivo. Possiamo dire positivo negativo, se vogliamo proprio annacquare un po' il termine, no? Oh. Allora, cosa vuol dire che c'è il positivo e c'è il negativo? Vuol dire che c'è quello che è dovuto e c'è quello che è assolutamente non voluto. E tu devi scegliere tra questo e quello. Però in realtà c'è anche una via di mezzo. Perché sì, il cibo che non è kasher, non è kasher, allora non è neutro, e fa parte delle tre klipot. Assur, molto interessante, la parola assur, abbiamo visto, vuol dire legato, come se fosse legato al negativo. Mangiare la matzah la sera di Pesach è una mitzvah, è un obbligo, chovà, obbligatorio. Non è una buona cena, è un obbligo mangiarlo, lo dobbiamo mangiare. Ma invece la buona cena dove sta? È neutra, è kasher, ma non è neanche obbligatorio mangiare. Il mondo neutro si chiama mondo di Noga. Klipat Noga, è una klipa. Una delle bucce. È una buccia, che è vero che klipa letteralmente vuol dire buccia. È una buccia, ma è una buccia che illumina, cioè è neutra, nel senso che sta in mano già un po' alla klipa, è già di questo mondo, diciamo, è già della falsità del mondo gli viene applicato, e quindi è possibile essere tirato giù dall'incontro con la klipat noga. Cioè, se io ho quella bella cena, me la mangio solo per il desiderio del corpo, allora lo tiro giù nelle tre klipot impure. Se invece la mia intenzione nel cibarmi di questo è un'intenzione più positiva, è per il nutrimento che potrò avere e per l'energia che potrò trarre da quel nutrimento per compiere quello che è il mio compito in questo mondo, cioè svegliarmi la mattina, andare al lavoro, mantenere la mia famiglia, mettere i tefilin, qualsiasi cosa che faccio, però nel senso coerente con la Torah, allora non solo quello non scende giù nella klipa, ma viene elevato fuori dalla klipat noga, viene elevato nella kedusha, nell'ambito della kedusha. Allora, quando questa povera hey, diciamo così, cioè l'energia divina che si va a finire proprio nei 10 sfirot, ma nel mondo di noga, vuol dire in un quasi in maniera molto lontana, quasi negativo. Hamashpat shefa vechayut al yedei mazalot vechol tzeva shamayim. Cioè l'aspetto del divino che è molto ormai legato al flusso che viene proprio nella materia, nel fisico, che come dicevamo può essere visto e preso in due direzioni. Allora quella hey piange, no? Abbiamo detto quello si chiama Galut Ashkina, l'esilio della Shekhinah. E l'esilio è ancora maggiore quando poi la scelta della persona che usa quella klipat noga nella maniera negativa, abbiamo detto attraverso l'atto negativo della persona, lì è la vera galut, lì è il vero esilio della Shekhinah. Umishum ze, per questo motivo, l'oratzta le redule maete tatzma. Ecco perché c'è quel midrash che abbiamo citato, la luna ha detto, non vorrei diminuirmi. Vi ricordate il Midrash che i due luminari erano uguali, il sole e la luna? C'è scritto Shnea Meorot Agdolim, i due grandi luminari. Allora la luna si è lamentata, ha detto scusa, non possono essere due re con una corona. Ha detto ok, allora diminuisciti, riduciti. E c'era tutta una discussione, no? Cos'è questa discussione? Ecco, è questa la discussione. Il riduciti detto alla luna vuol dire questo, vuol dire galut Shekhinah. Vuol dire che la Shekhinah va a finire molto molto lontano dalla sua provenienza, dalla sua fonte. Ed è questo anche che fa sì che ci sia quel forte tiro, attrazione verso l'alto, quello che dicevamo all'inizio di questo capitolo. Cioè il motivo dell'attrazione degli aspetti del divino che sono nel creato, di voler venire via, quello che abbiamo chiamato razzò, il voler correre via da qui, deriva da questo. Si trova in esilio, si trova in prigionia, in cattività. Già per la creazione stessa, e a maggior ragione, ancora di più, Nel momento in cui noi usiamo la creazione in maniera sbagliata, ancora rendiamo peggiore questa situazione. Causiamo il galut ha-shchinah, cioè l'esilio, diciamo così, più intenso della Shechinah. Poi vedremo la prossima volta qual è la risposta. Vi ricordate che nel Midrash rispondeva, Kadosh Baruch Hu diceva, gli dava diverse consolazioni, le dava la luna, no? Allora, tu sei piccola, ma i tzadikim saranno chiamati piccoli. Che consolazione è? Vedremo che anche qui c'è un messaggio profondo che approfondiremo nella prossima lezione. C'è anche il timore della scelta dell'uomo. Esatto. Sì.